Vai. Sigla. Fuoco alle polveri. Go Hell Paul Berry Radio Bomba. Buonasera e benvenuti alla 43esima puntata di Fuoco alle Polveri, come ogni lunedì alle 16:30 in punto. Ah no, forse non sono le 16:30 in punto. Non siamo in ritardo per niente, per niente. Guarda se il mic è acceso. Allora, il 43 ce l'ha oggi Lillo. Attenzione. Però vi vorrei porre una domanda, però voi non ci siete. Non eccolo. Sì, allora, il 43. Ora sì. Lascio questo onore, giustamente, anche perché sono arrivato in ritardo, lo dico a tutti voi ascoltatori. Quindi lascio a Bricco l'onore padre. Del 43, però ti pongo anche una domanda a cui poi mi dovete rispondere. Che cos'è la gematria? La gematria. Non lo la so. Gematria. Bene, lo scopriremo insieme fra poco, ma prima vorrei sapere cos'è questo 43. Il 43 è un numero, il numero della nostra puntata di oggi, è un numero che nel simbolismo, in particolare nella Kabbalah. Rappresenta il caos. Bravo, l'avevo trovato anch'io. La confusione, la battaglia, la guerra e che rappresenta ricordia. Bene l'oggi rappresenta la perfettamente l'oggi quello che ci sta succedendo là. Sì, liti per motivi futili non qui, caos, quantomeno sì. Caos però quello sì. Senti, la gematria si lega in realtà alla cabala in un certo senso. Sì. Sapete, sono le vostre cazzo di cose esoteriche, no. New Age, porca puttana. Noi siamo un po' New Age, si vede anche fisicamente, come ci vestiamo, ci atteggiamo. Ci piace un po' l'energia dell'ambiente. Fricchettoni, ci dicono. Ma cos'è sta gematria? Allora, la gematria praticamente è un sistema numerologico che studia le parole scritte in lingua ebraica. E assegna dei numeri. E quindi fondamentalmente è un po' una disciplina ammisto secondo me. Disciplina, sappiate voi ascoltatori, ha fatto un gesto con le mani tipo le virgolette. Con le virgolette. E, una disciplina un po' complottista. Complottista secondo me. Perché cerca assegna valori numerici, quindi alle lettere della lingua ebraica o alle parole. E niente, gli dà un significato. Perché voglio dire questa cosa? Perché sì. ho trovato la parola gematria all'interno di, appunto, digitando la parola esoterismo. Su sì. Google. E quindi avevi perfettamente inquadrato la questione. Assolutamente. Allora, ci sarà su questo sito che lasciamo stare il nome del sito, non li faremo assolutamente pubblicità. Ma nemmeno per sogno, ecco, nemmeno per sogno. Sarebbe pericolosa, ragazzi. Sì, perché cercavo questo 43, che non è facile il 43. Sì, a parte il caos. Ho tempo di anche di io ho trovato anche la questione. Degli animali connessi al 43, il lupo e la volpe. Bene. Comunque, per tornare a questo complottismo tra virgolette, e finiamo. Allora, praticamente parlando della Palestina, parlava della Palestina, diceva che praticamente dopo le risoluzioni che sarebbe potuta entrare all'interno delle Nazioni Unite, sarebbe stata il 143esimo paese. Sì. Che entrava dentro le Nazioni Unite dai 51 membri di partenza. Sì. E per l'appunto 143, che c'è il 43. Sì. Però, sì. Bene. 143 vale. più 51 fa 194. Okay. Che secondo la gematria riporta la parola ebraica giustizia. Quindi, se loro entravano nelle Nazioni Unite, era giustizia anche secondo la gematria, capito? Sì. Collegava bene. Tutto. Sì. Una follia pura, ragazzi, totale, questa cosa totale, della geografia, bellissima, certo, secondo me dovremmo approfondire. No, e non approfondiremo niente di tutto questo, approfondiamo altre cose oggi. Assolutamente sì, che cosa? Molto più importanti. Come avevamo annunciato la settimana scorsa, dei nostri inviati, dei nostri sì, emissari, Wombat. Diciamo, dei Wombat nostri emissari, Wombat, sì. Sono andati a Mondeggi a seguire quella due giorni di cui poi vi parleremo. E vi parleranno. E vi parleranno perché vi manderemo anche un'intervista. Abbiamo registrato un'intervista a dei ragazzi di Mondeggi. E che ci spiegano diverse cose. Quindi ve la faremo ascoltare. Poi faremo un po' di chiacchiere invece proprio su questi due giorni che c'è stata e che ha tanto interessato Wombat, tanto da farlo smuovere dalla tana in inverno. È roba. Mica da poco, ragazzi. Non è da poco. Poi qualche rubrica. E poi, visto che so già che ore sono, già le 7:30. Le 7:30. Bene. E poi vabbè, insomma, vediamo un po' cosa facciamo. E prima di tutto mandiamo una canzone, perché senza la canzone si sta male. Ce l'abbiamo, regia, sì. Mamma mia. Certo, e ce l'abbiamo. E cosa ci lanci, regista? Senza, però non ti sentiamo. No, quindi ce lo fai dire. Sì. Eccolo. Ciao, mio. Canzone Mad Caddies, Macho Nacho. Vai. Mad Caddies. Benissimo. L'infanzia, l'adolescenza. Wombat. Eccoli. Sì. Pronti. Proprio no. Errore. Grazie Tufo, grazie del tempismo. Senti, come avevamo promesso, direi che partiamo con questa intervista. Sì. Che intervista è? Che abbiamo sentito? Dunque, intanto bisogna chiedere. Siamo stati a Mondeggi per a seguire una due giorni che trattava appunto resistenza, territori di resistenza, quindi con vari invitati, con vari comitati un po' da tutta Italia e non solo, addirittura anche con un comitato internazionale. E sono stati trattati diversi temi. Questa in particolare è l'intervista agli ospiti, che è Mondeggini, che ci spiegano un pochino che cosa stanno facendo da 3 anni a questa parte, in particolare, così, anche da un po' di più di 3 anni a questa parte. Beh, direi che lasciamolo dire a loro. Sì, beh, sì, direi, dai. Wombat. Eccoci ancora in diretta dalla 2 giorni di Mondeggi. Questo è qualcosa come il gran finale. Stiamo infatti intervistando i padroni di casa. Abbiamo con noi Daniele e Antonio di Mondeggi. Ciao ragazzi, intanto grazie dell'invito, grazie per questi 2 giorni, per aver organizzato tutto quanto. E infatti da subito vi domanderemo che cosa si è fatto, cosa è stata questa 2 giorni autonomia, territorio e resistenza, perché la si è organizzata, e poi magari andiamo su Mondeggi in sé. Sì, intanto vi ringraziamo prima di tutto a voi che avete registrato e avete mandato in onda tutto questo materiale, che per noi è senz'altro utilissimo da poter utilizzare per noi stessi. Questa 2 giorni autonomia, territori e resistenza, beh, è nata innanzitutto dalla presenza del regista che ieri ha proiettato il documentario Il segreto della bellezza, che si chiama Nestor, un compagno messicano dello stato del Chiapas, e un ragazzo di comunità che già da tempo segue attraverso i documentari e film i processi indigeni messicani. E quindi dal rapporto che abbiamo stabilito negli anni con il collettivo Nodo Solidale è nata questa opportunità di poter proiettare questo documentario, e da lì abbiamo pensato e riflettuto che in questa preciso momento della storia di Mondeggi non avevamo voglia solo di, seppur importante, proiettare, dare spazio a presentazioni di libri, documentario e aggiornamenti, ma avevamo voglia anche di ampliare gli orizzonti possibili, soprattutto che quelli che concernono anche la situazione attuale che stiamo vivendo qui a Mondeggi. Infatti il bando di vendita di tutta la tenuta si sta avvicinando e sono uscite le manifestazioni di interesse per comprare appezzamenti o appunto Mondeggi nella sua totalità. Eppure il processo di autonomia e di democrazia diretta che cerchiamo di portare avanti in questo territorio non si sta fermando, e quindi abbiamo, dalle nostre necessità di dare alcune risposte o comunque di provare a scambiare pratiche e contenuti simili che pensiamo di condividere con le tante realtà che hanno partecipato in questi giorni, è nata un po' l'idea di ampliare questa iniziativa e di lanciare questa 2 giorni. Io personalmente sono molto soddisfatto, sia... E ci aggiungiamo la nostra di soddisfazione. Assolutamente. Dai, è stata bellissima, è stata 2 giornate belle, belle, belle, belle, belle. Bene, bene. Sono molto contento. E quindi sia dalla giornata di ieri che dall'assemblea di oggi che... ha visto incontrarsi, ecco, ora poi passo la parola all'altro compagno di Mondeggi, ma ecco, la cosa che mi è piaciuta molto e che avevamo voglia di proporre è proprio quella, l'incontro tra varie realtà urbane, cittadine, periferiche, lotte territoriali, di dare l'opportunità di potersi conoscere, incontrare. E quello che abbiamo visto anche stamattina nell'incontro di oggi è stato proprio un tentativo di mettere da parte anche la veste, no? Che di solito portiamo all'interno dei nostri spazi, quindi svestirci di tutti questi preconcetti che purtroppo anche nella politica militante siamo molto abituati ad avere, e quindi è stato anche un incontro molto non magari non decisionale, però che ha affrontato le esigenze e i bisogni di ciascuno e ciascuna, ed ha provato. Senz'altro, infatti, da quel punto di vista è riuscito, non c'è dubbio, non soltanto durante l'incontro, ma anche durante i workshop del pomeriggio, o i momenti sociali da ieri sera a durante le pause, insomma, non c'è dubbio. E quindi nulla, questa è stata Autonomia, Territori e Resistenza, speriamo appunto magari non di ripeterla noi, ma che questi legami, questi lacci di complicità che abbiamo legato durante questa due giorni possano avere un seguito anche proprio dal punto di vista dell'organizzazione e della conoscenza reciproca. No, infatti ci sarebbe una figata, a parte che non finisse qui ovviamente come cosa, e poi che venisse organizzata anche da altri posti in realtà. D'altre realtà, avviare uno scambio così sarebbe una figata, tenersi aggiornati tutti con tutti sarebbe veramente una roba bella e poi utile. Che cazzo, cioè, se ancora non c'è, proprio manca, ci vorrebbe. Sì, proprio, diciamo, infatti... la sensazione almeno che personalmente ho avuto alla fine dell'assemblea di stamani è che volesse essere in qualche modo l'inizio di un percorso, ecco, e quindi non una cosa chiusa in sé, ma che davvero possa avere un seguito e possa raccordare realmente, appunto, è già stato detto stamani che fare rete è una frase più che abusata, però si tratta di quello, e oggi in qualche modo mi pare che si sia riusciti a mettere in connessione reale insomma tutta una serie di realtà che evidentemente non avevano avuto modo di dialogare così tanto. Ma infatti approfitto per ricordare a chi ci sta ascoltando che da fra un paio di giorni in poi sul sito wombat.noblogs.org saranno disponibili tutti gli incontri, e quindi sarà possibile riascoltare tutto quello che è successo in questi due giorni, e almeno abbiamo archiviato un po' di materiale che male direi che non assolutamente fa. Non fa. Grazie mille Radio Wombat per averci grande, grazie supportato a voi. Durante questa iniziativa. Ma veniamo al dunque, Mondeggi, per chi non sa e ci ascolta, che cos'è Mondeggi? La fattoria senza padroni Mondeggi, che cos'è? Che cosa fa? Allora, molto difficile definire Mondeggi in modo piuttosto sintetico. A parole mie definirei Mondeggi comunque, oltre a una fattoria senza padroni, un'esperienza di custodia popolare, cioè una fattoria che riesce a coinvolgere il territorio. Parliamo attualmente di almeno 300 persone nell'autogestione di quasi 200 ettari di terra, per cui un laboratorio sociale che è prima di tutto una scuola di autogestione, un luogo dove si può apprendere a fare agricoltura al di fuori delle convenzioni che il mercato, che la politica ci impone. È un luogo dove si può socializzare intorno a un'altra idea della terra, che non è un suolo da assimilabile a una fabbrica in cui si mettono degli input industriali, in cui si estrapola profitto e beni materiali da rivendere nella grande catena della distribuzione organizzata, ma è un luogo dove si produce e si autoproduce cibo. Per cui è un luogo dove si va a ridurre il più possibile quella che è la filiera del cibo. Per spiegare ancora meglio quello che è Mondeggi, io partirei dalla sua storia. Sì, direi. Mondeggi nasce da una campagna di opposizione al decreto legge Salva Italia del governo Monti. Una campagna è stata lanciata dal circuito di Genuino Clandestino, che è stata chiamata Terra Bene Comune, in opposizione a un decreto legge che voleva spingere e rendeva possibile la vendita delle terre pubbliche agricole. Una campagna che non è stata solo una campagna d'opposizione, ma di proposta di restituire alle comunità locali quelli che sono i processi decisionali che gli appartengano, cioè della gestione, dell'autogestione di un territorio. Da questa campagna si è formato un comitato locale a Firenze, che ha piano piano è riuscito a aggregare vari ambienti fiorentini, dai centri sociali ai gruppi di acquisto, agli studenti di agraria organizzati in collettivo, sì, a tutta una serie di soggetti associativi, militanti, di attivisti che si univano proprio a questo proposito, e che piano piano durante le assemblee ha portato all'attenzione il caso di Mondeggi. Da lì è nato il comitato Verso Mondeggi Bene Comune, e sono state portate avanti periodicamente le assemblee dove si è arrivati alla scrittura collettiva della Carta dei Principi e degli Intenti, cioè un documento in cui si arrivava a definire quello che Mondeggi poteva essere, cioè non una fattoria che la provincia di Firenze, la proprietaria, voleva vendere, ma un qualcosa che il territorio, che tutte le persone che vedevano una fattoria, un bene pubblico, come un bene comune, potessero aver voce in capitolo, potessero decidere e portare avanti un'azione collettiva. Poi è quello che si stava tentando di fare, no? Appunto, alienare un bene pubblico. Esatto. Mondeggi infatti è un caso molto è un caso particolare, perché la provincia generalmente tra le sue competenze non ha delle competenze agricole, però è comunque un caso particolare, ma molto emblematico invece di quella della politica italiana, cioè è un bene che è diventato pubblico negli anni 60, è stato acquisito per una funzionalità di tipo sanitario, una funzione sociale di tipo sanitario, volevamo farci un manicomio, poi è cambiata la legge e dopo tutta una serie di vicissitudini è stata costituita una società agricola di tipo convenzionale, cioè con un approccio industriale all'agricoltura, per cui uso di prodotti prodotti industriali, per cui chimica di sintesi, grossi macchinari e insomma tutta una serie di approcci che hanno portato a una gestione fallimentare con un accumulo di un debito di più di 1 milione di euro, che poi è diventato fino a 1,5 milioni, per cui debiti e impasse gestionale che poi ha portato alla liquidazione, cioè alla liquidazione della società e all'intenzione di alienarla, cioè venderla alla prima offerta economica valida. Da lì è nata l'opposizione, è stata portata avanti con gran forza in una stagione in cui si è tentato un dialogo con le istituzioni a tutti i livelli, parliamo del 2013. È stato organizzato anche un incontro di Genuino Clandestino a Firenze, in cui si è fatta una visita con una semina simbolica del grano, poi insomma è stata poi organizzata una raccolta delle olive, sono state distribuite le olive, l'olio praticamente in varie occasioni nel territorio, e da lì si cercava piano piano di sensibilizzare le persone, sempre più persone, a questa vicenda. Da lì siamo arrivati a un punto in cui le amministrazioni, pur apparendo ricettive, insomma, da più di un personaggio è stato detto: ma che bel progetto, ah, che bella carta dei principi, poi alla fine, infatti, l'intenzione è stata quella di vendere senza se e senza ma. A quel punto è stata presa la decisione all'unanimità di occupare Mondeggi, cioè di prendere in considerazione interamente tutte le terre, sì, di Mondeggi, per portare avanti il nostro progetto di fattoria senza padroni. Parliamo dell'estate del 2013, in cui è stata lanciata una 3 giorni, con un campeggio sono accorsi da tutta Italia centinaia di persone. E da lì è partita l'occupazione e si è stabilizzato fin da subito un presidio contadino, cioè un gruppo di persone che intenzionati a rivitalizzare, recuperare la fattoria, si è in pianta stabile, si è trasferito a Mondeggi per portare avanti la custodia popolare, cioè portare avanti tutto un insieme di iniziative che coinvolgessero il territorio e che stimolassero l'accesso alla terra per chi condivideva questa visione della terra. Evidentemente un'azione giusta e necessaria, e che tuttavia a quanto pare però non è stata senza prezzo. Infatti parte del ricavato di questi due giorni anche per via delle denunce che sono seguite da questa azione, giusto? Sì, infatti fin da subito i carabinieri sono presentati bussando alla porta e insomma raccogliendo i nominativi degli occupanti, e da lì insomma ci ritroviamo con 17 denunce a cui dovremo far fronte. Ad aprile ci sarà un primo processo, e questa iniziativa è stata molto utile perché è andata a costituire una prima cassa, un primo fondo cassa che ci aiuterà a sopperire alle spese legali. Ovviamente seguiremo anche con Radio Wombat la vicenda, non solo, insomma. Sì, no, giusto per aggiungere una cosa rispetto alle denunce, appunto quello che ne è conseguito questa due giorni è servita anche, io penso, per sensibilizzare le persone presenti a quello che sta, a ciò che sta avvenendo qui, e cioè, io mi sento particolarmente soddisfatto da questo punto di vista, nel senso che siamo riusciti ad arrivare anche in ambienti, a persone che prima magari non ci conoscevano, non ci conoscevano così bene, adesso probabilmente attraverso conoscenza possono anche venire a difenderci. Quindi ecco il messaggio, che grazie anche a questa iniziativa non ci sentiamo soli, ecco. Certo. Sì, poi va detto che in questi tre anni e mezzo sono state direi migliaia le persone che sono venute a Mondeggi, hanno visto i loro occhi il lavoro che viene fatto qua, e l'hanno vissuto e ovviamente noi cerchiamo sempre di organizzare delle iniziative che coinvolgano anche delle esperienze a livello nazionale e anche internazionale. Però il lavoro, quello vitale, quello che porta avanti alla fine l'esperienza di Mondeggi, è quello che si fa sul territorio, per cui è molto importante ad esempio il progetto MOTA, Mondeggi Terreni Autogestiti, è un progetto in cui chiunque voglia prendere in custodia una particella di olivi per produrre olio per il proprio consumo può farlo. Può anche prendersi un appezzamento di orto per produrre delle verdure, e si cerca anche di coinvolgere le persone anche nel lavoro della fattoria, perché la fattoria alla fine riesce a produrre tutto quello che è possibile produrre in questa terra. E la risposta a questa cosa la risposta a questa cosa com'è stata? Cioè, c'è effettivamente persone che si sono prese in cura degli appezzamenti e degli olivi? O... Sì, allora inizialmente, almeno dopo i primi giorni dell'occupazione, l'atmosfera era quella della diffidenza, perché ovviamente non ci troviamo in centro a Firenze, dove certe tematiche spesso sono molto più sentite. Nelle campagne certo, c'è una cosa di diffidenza, certo, sì, devi, anche devi... conoscitive, eccetera. Certo. Cioè, i problemi della campagna in genere vengono a volte avvertiti meno proprio nelle campagne. Comunque dopo una prima diffidenza, comunque vedendo che le persone che occupavano una fattoria lavoravano, portavano avanti tutta una serie di progetti agricoli, cercavano di coinvolgere altre persone, questa diffidenza piano piano si è sciolta. Il progetto MOTA è la rampa che ci è servita per riuscire a coinvolgere in territorio in modo massiccio, per conoscersi. Ecco, è stato un percorso graduale in cui inizialmente si è chiesto alle persone di adottare un albero, no? Perché abbiamo impiantato un frutteto di 400 piante abbiamo dato un esempio anche di quello che può essere la riduzione della distanza tra il produttore e il consumatore, cioè dove il consumatore è un soggetto passivo che va al supermercato a comprare qualcosa, invece può essere un coproduttore, sì, qualcuno che si responsabilizza proprio verso i problemi del produttore, soprattutto il produttore piccola scala, che è quello più svantaggiato in agricoltura. È venuto in mente che forse ci siamo dimenticati di dire però dove si può trovare Mondeggi, cioè voglio dire nella vita vera e nella virtualità, per chi ci ascolta e si domanda dov'è questa campagna di cui parliamo. Sì, allora Mondeggi è molto ben raggiungibile da Firenze, anche senza una macchina, in macchina è molto vicino, praticamente si situa poco sopra nella collina e sta sopra all'Antella, un paesetto insomma appena vicino a Bagnaripoli, che è il comune dove è situata Mondeggi. E diciamo che in macchina in 10 minuti dai viali arrivi, sì. Col bus arrivi a Antella oppure a Grassina e poi o ti fai una mezz'oretta di passeggiata piacevole oppure sei in contatto e ti veniamo a prendere. Quello un po', chiunque può venire anche a visitarla in modo un po' più stabile, nel senso che noi offriamo la possibilità di essere ospitati, in genere noi proponiamo una settimana perché è un giusto tempo sia per conoscerci a vicenda sia anche per permettere una rotazione delle persone che vogliono visitare la fattoria. Proprio in questo modo tante persone hanno conosciuto in modo più approfondito l'autogestione di Mondeggi e anche in diversi casi sono venuti a abitare qui, sono diventati presidianti dopo un po' di tempo. A proposito della questione ancora in corso, insomma, delle denunce e della svendita di questo patrimonio, che cosa si può dire? C'è un bando d'asta, giusto? Sì, allora... come sta messa, insomma, la situazione? Sì, allora, Mondeggi è stata messa all'asta più di una volta. L'ultima asta è andata deserta, poi sono stati praticamente venduti alcuni piccoli appezzamenti marginali per andare a sopperire, insomma, quelle erano le spese, almeno queste erano le dichiarazioni, le spese ordinarie. A quel punto la città metropolitana, che è quella che è succeduta alla provincia di Firenze come proprietaria, ha proceduto praticamente a vendere tutto quello che era possibile vendere, cioè tutti i mobili della villa, perché Mondeggi è costituita da una villa e vari poteri a livello di strutture, e ha venduto anche tutti i mezzi e i macchinari e gli utensili agricoli. Addirittura ci siamo ritrovati in una situazione abbastanza paradossale in cui ci veniva richiesto di trinciare e pulire l'oliveta per il rischio incendio perché avevano venduto tutti i macchinari, per cui ci dipingano come delinquenti quando c'è bisogno di criminalizzarci e di farci passare come insomma un soggetto scomodo, però alla fine siamo molto utili proprio per sopperire alle operazioni basilari di manutenzione, e quindi quando conviene sono anche indirettamente ci contattano pure per fare dei lavori, per cui è abbastanza paradossale questa situazione. Che non venga riconosciuto tutto l'enorme lavoro che è stato fatto in questi 3 anni e mezzo e l'enorme lavoro che viene fatto tutti i giorni da tante persone e la simmetria totale che c'è a livello di narrativo, cioè se te vai a vedere tutti gli articoli in cui sono stati intervistati gli amministratori, noi siamo degli abusivi, noi siamo dei delinquenti, poi alla fine non c'è alcun minimo riferimento a quello che succede veramente, sì. Qua sì, un altro fatto assolutamente paradossale è come questa fase precisa rispetto appunto alla vendita è questa richiesta che è stata fatta dalla città metropolitana e che si chiuderà questa fase al 30 novembre che hanno chiamato dichiarazioni di interesse, cioè chiunque fosse interessato a comprare una particella oppure un pezzo più ampio di Mondeggi, un terreno piuttosto che una casa, lo può fare, può presentare una dichiarazione di interesse e da lì in poi la città metropolitana valuterà di costruire un bando ad hoc naturalmente per la proposta più allettante. Quindi la cosa paradossale, cioè, il cliente prescelto da così, sì, una chiacchierata informale tipo, sì, c'è una roba assurda, pesa, no? Assurda. La cosa paradossale, cioè, illegale, penso, se la guardi bene, cioè, sì, no, appunto, la cosa paradossale è che non hanno preso in considerazione la nostra manifestazione di interesse, che non è di certo quella stampata in carta con, certo, non è formale o protocollata, a parte che è stata protocollata anche, magari Daniele può spiegarvi meglio, non è la dichiarazione di interesse ma è la dichiarazione di autogoverno attraverso gli usi civici che abbiamo presentato, ma appunto è veramente assurdo come non prendere in considerazione il fatto che non una ventina di ragazzi dai 20 ai 50 anni si sono presi cura, ma che una comunità intera si è organizzata sul territorio e loro hanno noi e questa comunità ha proposto ha fatto una manifestazione di interesse e l'ha fatta concretamente, se ne è presa cura nel modo più diretto in cui si poteva farlo, quindi sì. Un'altra cosa che su cui vale la pena mettere l'accento, era giusto, perché sì, mi sembra un peccato giusto che ce n'è l'occasione non farlo, è questa, cioè una critica c'è stata rivolta più di una volta dal sindaco di Bagnaripoli, è stata che gli occupanti Mondeggi sono appropriati di un bene pubblico per fini privati, questa è un po' l'immagine che si cerca di passare. In realtà questa posizione parte da vari fraintendimenti. Il primo dei quali è fare agricoltura contadina oggi vuol dire portare avanti un presidio umano su un territorio naturale, più o meno naturale, in cui si preserva quel territorio e in cui si dipende da quel territorio. Per cui fare agricoltura contadina vuol dire vivere di quello che si produce, e già questo è una grossa garanzia di qualità, di dover gestire in modo salutare un territorio, in modo responsabile. Oggigiorno fare agricoltura contadina è molto difficile, è sempre più difficile, andando a vedere le legislazioni che ci sono e il mercato come gira, e noi cerchiamo non di produrre e di vendere cibo, non si può ridurre qui a questo l'attività di Mondeggi. Noi cerchiamo di fare rete con tutti i produttori di piccola scala, tutti i produttori contadini che ci sono nel territorio, per sia portare avanti la scuola contadina, che è un'esperienza che è aperta a tutti in modo libero e gratuito e autogestito, in cui si portano degli esperti, dei professori, dei contadini, delle persone che attivano uno spazio di scambio libero di sapere e di pratiche, e molti delle persone che insomma hanno avuto l'opportunità di partecipare a questi incontri, che hanno investito tutti gli ambiti produttivi di Mondeggi, ne hanno tratto giovamento e hanno a loro volta portato avanti con noi un lavoro di rete. Insomma, la rete. Salve a tutti, benvenuti qua. È il 43, ragazzi. No, c'è stato un problema con questa intervista che forse si è interrotta prima della fine, giusto? Esattamente. Bene. E ora la riprendiamo dal punto esatto? No, perché no. Non permette di andare avanti, pare. Oh. Un file strano. Ok, abbiamo rotto il file. È così oggi, ragazzi. Oggi è il caos. È il caos. L'avevamo predetto. È il Kairos. È successo. Scusate. Facciamo una cosa, manda una canzone. Comunque, e poi i nostri amici che erano presenti all'intervista faranno un bellissimo riassunto. Oh yeah. Vabbè, Wombat. c'era un abbraccio. Ricordi quella stanza enorme come un tuono, una nave che poi salva dal porto di una vita le braccia di un oceano. I fiumi del Montana come se quattro mura fossero liquide. Eccoci, bentornati. Bentornati. Come vi anticipavamo prima, abbiamo avuto dei problemi tecnici sull'intervista che però sembrano essere quasi risolti. Quindi tra poco sentirete la fine dell'intervista, la seconda parte, diciamo. Sì, esatto. Come se l'avessimo divisa in due parti. Sì, esatto, l'abbiamo fatto apposta. Certamente. Tematicamente anche è stata una cosa di redazione lunga, importante. E vabbè, senti, quindi sentiamo la seconda parte dell'intervista, yes. E poi magari facciamo due chiacchiere con tutti con noi. Chi era presente, esatto, quello che abbiamo visto. Vale la pena mettere l'accento ora, giusto, perché sì. Mi sembra un peccato, giusto, che ce n'è l'occasione non farlo. È questa, cioè una critica c'è stata rivolta più di una volta dal sindaco di Bagnaripoli, è stata che gli occupanti mondeggi sono appropriati di un bene pubblico per fini privati. Questa è un po' la l'immagine che si cerca di passare. In realtà questa posizione parte da vari fraintendimenti. Il primo dei quali è fare agricoltura contadina oggi vuol dire portare avanti un presidio umano su un territorio naturale, più o meno naturale, in cui si preserva quel territorio e in cui si dipende da quel territorio. Per cui fare agricoltura contadina vuol dire vivere di quello che si produce, e già questo è una grossa garanzia di qualità, di dover gestire in modo salutare un territorio, in modo responsabile. Oggigiorno fare agricoltura contadina è molto difficile, è sempre più difficile, andando a vedere le legislazioni che ci sono e il mercato come gira. Noi cerchiamo non di produrre e di vendere cibo, non si può ridurre qui a questo l'attività di Mondeggi. Noi cerchiamo di fare rete con tutti i produttori di piccola scala, tutti i produttori contadini che ci sono nel territorio, per sia portare avanti la scuola contadina, che è un'esperienza che è aperta a tutti in modo libero e gratuito e autogestito, in cui si portano degli esperti, dei professori, dei contadini, delle persone che attivano uno spazio di scambio libero di sapere e di pratiche, e molti di delle persone che insomma hanno avuto l'opportunità di partecipare a questi incontri, che hanno investito tutti gli ambiti produttivi di Mondeggi, ne hanno tratto giovamento e hanno a loro volta portato avanti con noi un lavoro di rete, che poi ad esempio ritroviamo nel presidio, che ritroviamo tutti i venerdì pomeriggio in Piazza Tasso, dove tutta una serie di produttori che si riconoscano prima di tutto nell'opposizione alle ingiustizie legislative che ci sono in Italia e che hanno fatto nascere e crescere il movimento di Genuino Clandestino. Per cui è nato un nodo di Genuino Clandestino in Piazza Tasso, viene portato avanti tutte le settimane facciamo iniziative per sensibilizzare, per informare su tante tematiche che ci riguardano direttamente. Questo è un esempio, insieme al MOTA, insieme a tante iniziative, alle scuole che vengono qui a visitarci, tutta una serie di iniziative che hanno una funzione sociale che oggigiorno è importantissima. Cioè quello di smascherare quello che è accettato a livello di cultura egemonica, ma che invece va a cancellare tutte quelle che sono le tradizioni, le pratiche, i modi di saper fare le cose che stiamo perdendo anno dopo anno. Basta vedere anche in 30 anni sono spariti 2 milioni di aziende di piccola scala, per cui insomma anche a volte anche i freddi numeri dicono un po' tutto quello che succede. Ricordiamo quindi questa cosa del venerdì, in realtà la volevamo rilanciare anche più tardi noi, per chi volesse assaggiare Mondeggi o anche magari incontrarvi, parlarvi e non avesse da venire fino a sopra l'Antella, pure se è vicino, l'abbiamo detto, il venerdì in Piazza Tasso, il mercato col nodo di Genuino Clandestino, Mondeggi è presente, quindi noi rilanciamo a nostra volta, abbiamo detto questo, abbiamo detto come venire, il modo in cui comunque tendete a ospitare, non abbiamo detto il sito internet sul quale abbiamo letto anche tanto, credo anche quella carta dei diritti di cui ci parlavi sia lì presente, c'è un elenco delle vostre attività e così via, oltre a una serie di contatti. Sì, allora ci trovate su internet nel nuovo blog che abbiamo fatto insomma di recente, www.mondeggibenecomune.noblogs.org. C'è anche un vecchio blog dove si possa ritrovare varie cose che ancora non sono state trasferite, perché è ancora un sito in costruzione, però lì trovate un po' tutte le informazioni, varie documentazioni, archeologia utili, insomma. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di dire, magari anche lì è un peccato non ribadirla, quello che noi facciamo non è solo un'opposizione, cioè quello che noi portiamo avanti, ad esempio nel presidio di Piazza Tasso, è proprio un altro modo di intendere e far circolare il cibo. Se ci ritroviamo in una società di consumatori che vanno a un supermercato e tutto il loro rapporto con il cibo si esaurisce in un'etichetta dove non c'è scritto niente praticamente, e al di là del quale si nascondono delle dinamiche di sfruttamento senza fine, noi portiamo avanti la relazione diretta tra persone. Piazza Tasso è uno spazio di scambio diretto tra persone, tra produttori, da tutte le persone che intendono approfondire quella relazione, in cui si porta avanti un processo di costruzione di una garanzia, di un sistema di garanzia partecipata. Cioè un produttore non è che è lì perché non trova altro spazio in altri mercati, un produttore è lì perché crede in tutta una serie di principi, in una modalità di organizzazione che è l'autogestione e nella trasparenza. Cioè un produttore deve essere completamente trasparente, deve compilare una scheda dove dice tutto quello che fa, dove dà la possibilità a chiunque di visitare la propria fattoria, le assemblee vengano fatte a girare nelle varie fattorie, e questo è un inizio, è uno sviluppo di questo sistema che permette una trasparenza totale. Sì, io volevo rilanciare anche un altro appuntamento, a parte quello di venerdì in Piazza Tasso, che sicuramente è importante e vi aspettiamo tutte e tutti. Rispetto alle manifestazioni di interesse al bando di vendita, volevamo lanciare l'occasione del 30 novembre, in cui si chiuderà il periodo di proposta delle manifestazioni di interesse, e quindi la comunità resistente di Mondeggi si troverà alle 3 del pomeriggio sotto i palazzi della città metropolitana, vicino al centro di Firenze, quindi invitiamo a tutte e tutti a partecipare numerosi, a supportarci anche in questo frangente, perché appunto per noi la costruzione di altri mondi possibili la cerchiamo di viverla e cerchiamo di praticarla tutti i giorni attraverso il nostro lavoro, attraverso il lavoro di questa comunità intera, però anche con l'opposizione, anche con nelle piazze. Secondo noi sono due pratiche che si devono sempre più incontrare, ed è anche un po' il ponte che oggi si lanciava tra città e campagna. Quindi invitiamo tutte le compagne di Firenze e di tutte le altre geografie distanti e lontane a partecipare e a supportarci anche durante questa iniziativa. Diciamo l'alta voce, infatti il 30 novembre alle 15 invitiamo anche noi, e senz'altro. Sì, un'ultima cosa, certo. Si può aggiungere, nell'ultimo anno abbiamo portato avanti un processo di scrittura collettiva di un documento, denominato dichiarazione di gestione civica di un bene comune, in cui è stato molto utile sia per confrontarci e per mettere nero su bianco quelle che sono tutte le modalità dell'autogestione di Mondeggi, sia per rendere intelligibile questa autogestione a tutti, cioè dare la possibilità a chiunque di partecipare, perché questo è quello che contraddistingue Mondeggi: chiunque può partecipare, sia anche di offrire una possibilità all'amministrazione di riconoscere la comunità di Mondeggi, perché all'interno di quella dichiarazione noi siamo stati seguiti da un gruppo di giuristi di Napoli che ha seguito il lavoro dell'ex asilo Filangeri, che è riuscito con successo a portare avanti questa iniziativa, cioè a far produrre una delibera in cui si andava a riconoscere quell'autogestione senza che le amministrazioni ci mettessero in qualche modo lo zampino, perché questo è sempre il rischio della cosiddetta regolarizzazione e legalizzazione dell'autogestione, cioè l'interesse a porre un freno a quello che è o comunque dei limiti o un qualche ambito di controllo a quelli che sono a quella è un'esperienza di democrazia dal basso autentica, di autogestione proprio, sì. Cioè, sembra quasi che sia la cosa che gli fa più paura, cioè la cosa che devono tenere a bada è quella, sì, evidentemente qualcosa è molto scomodo, un gruppo di cittadini che autogestiscano qualcosa. Dove la si può trovare, se la si può già trovare? Sì, allora nel nuovo blog c'è uno spazio documenti in cui si può scaricare, leggere tranquillamente la dichiarazione, anche un appello che è stato fatto da 250 accademici che hanno scritto e diffuso un appello alle amministrazioni per opporsi alla vendita e spingere proprio questa dichiarazione di gestione civica. Un appello che si è allargato anche alle realtà sociali, ad esempio anche la vostra radio può aderire, per cui anche lì qualsiasi realtà che voglia aderire è molto utile farlo, proprio perché ultimamente, negli ultimi mesi, sia da parte del comune che da parte della città metropolitana sono partite le iniziative di diffida di associazioni che volevano fare un campo estivo per ragazzi, oppure fare inserire nel proprio programma delle attività di mondeggi bene comune, oppure è stato fatto un appello dal sindaco a non partecipare, no, alle attività del comitato. È molto utile far vedere in questo momento che tutt'altro che essere isolati possiamo contare forti di un sistema di relazioni, sì, ampio, sì, sì, e forte. Giusto. E che dire se non davvero lunga vita a Mondeggi, grazie per questi due giorni, per l'ospitalità. Grazie a voi. E alla grazie prossima. Per l'ultimo, per questa chiacchierata. Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Eccoci. E voilà. Avete sentito? Avete sentito? Ci siamo. Magari se ci sparate un sottofondo. Siamo qua. Allora, un po' di verve perché c'è il gruppo Grippico, il disco Grippico della settimana. Non ti sentiamo, no, Grande Lago. Aspetta, quindi... perché vogliamo un attimino fare alcune precisazioni su sta cosa, perché qualcuno di noi era presente cioè lo Wombat è uscito dalla sua tana nonostante il freddo. Eccoci. È uscito dalla tana, dicevamo, ha messo il culo fuori e si è rintanato nell'annesso di Mondeggi, dove non ha trovato tanto calore in quanto a temperatura, ma ha trovato un sacco di calore umano, perché c'è stata veramente una buona partecipazione. E intanto aspetta, vi presento la nostra nuova ospite. Jay. Prego, forse. Prego. Jay. Dai. Ok, Jay. Anche lei è presente, vero? Sì. Da sabato e basta, sabato pomeriggio e domenica. Com'è andata? Super bene, no, molto bella, a parte appunto il freddo, però... Lo so, ma in campagna, ragazzi, cioè, non è che... non si può fare altrimenti. No. Bene, allora, quindi il sabato è stata una giornata piuttosto intensa. Ripetiamo, erano due giorni di incontro sul territorio di Resistenza con un sacco di partecipazione, tantissimi comitati italiani e non, e è partita con il sabato la presentazione di un libro di fiabe, se non mi sbaglio. Sì, di questa editrice Kairos, no? Che sono le fiabe del nuovo comandante Galeano, che non è il nuovo comandante, è il secondo nome che sarà preso sul comandante Marcos delle ZLN in Chiapas, e sono tutte storie di una bambina tra gli 8 e gli 11 anni che ha vissuto di terza generazione anche l'educazione zapatista, quindi anche il legame con la natura e tutte le pratiche politiche dell'organizzazione della vita. Esattamente, poi si è andata avanti con un'altra presentazione di un documentario, Il Saccheggio. C'era presente il regista messicano, a cura del collettivo Recom, a cura del collettivo Recom, esattamente, che è un collettivo. Abbiamo fatto un'intervista, esatto, troverete un'intervista del Recom, del collettivo Recom, in podcast prossimamente. perché vabbè, niente, hanno presentato questo documentario che tratta dei progetti di estrazione, di estrattivismo, si può dire. A questo punto ci hanno spiegato molto bene di che cosa si tratta, tutto un processo attraverso il quale diciamo agevolano alle grandi aziende l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse sui territori, in generale nel mondo, però in particolare appunto nel Chiapas, dove beh, insomma, dai, ve lo potete trovare. Loro lo hanno pubblicato addirittura questo documentario. No, ancora. Forse ancora no. Ancora sarà pubblicato. Sarà sbagliato, sì. Notizia sbagliata, no, è vero. Era un altro documentario fake del news quale mi hanno noi parlato. E tanto comunque ci hanno detto che lo metteranno disponibile. Bene. Sì, a seconda di. Per ora è appena stato fatto. Si chiama Il Saccheggio, giusto? Il Saccheggio, sì. E verrà messo più avanti per permettere al regista, personaggio bellissimo per l'altro che era presente, messicano, il regista gli permetterà di usarlo come vuole prima di buttarlo libero in rete. Fatto sotto Creative Commons, ok, ricordiamo. Sì. Appunto, Nodo Solidale è un collettivo che è un po' è attivo sia in Italia che in Chiapas con vari progetti. Vi sentirete appunto l'intervista. E il sabato, più o meno questo, poi c'è stata una super cena e anche balli popolari con i quali appunto ci siamo scaldati decisamente. Tutti a letto. Ti hai dormito libero? Io ho dormito, sì, che nella stanza, insomma, in una stanza della casa che era in un altro edificio rispetto a dove si facevano queste assemblee, e di là invece abitativo con la cucina e tutto. Sì, si c'era dormiva. Un sacco di gente. Io devo dire una cosa. Quando un'infamata radiofonica dal mio compagno di letto, che ha russato tutta la notte. Tutta. Ma chi era, scusa? Era uno, boh, era andato a letto prestissimo. Un tizio, lo sa. Noi siamo arrivati, era già a letto, fra l'altro da un bel po' dormiva. Okay. Si arriva, ok. No, da ore, direi. Profondo. Io non mi sono, cioè l'ho sentito, però sono crollato, devo essere sincero. Beato te. Non mi ha proprio dato fastidio. Comunque la mattina sveglia presto, alle 8:30, una colazione fantastica, perché c'erano delle crostate che erano buonissime, biscotti, tutto vegano. Siamo andati avanti con l'assemblea. Una grande assemblea con appunto una grande assemblea di 3 ore, dove sono stati affrontati molti temi, però tutti incentrati un po' sul, diciamo, l'obiettivo era quello di cercare un'alternativa reale al capitalismo, nel senso che tutti i movimenti anticapitalistici fino adesso loro sostenevano che sono nati e si sono sempre sopravvissuti perché si oppongono a qualcosa, senza però mai riuscire a dare poi veramente una reale alternativa alla questione. E quindi infatti dall'assemblea è venuto fuori questo, che si è capito questo problema, è stato compreso e è stato compreso che serve una soluzione. La soluzione ancora naturalmente nessuno la è da trovare, però si sono ripromessi appunto di affrontarlo questo tema. Sono momenti, penso, di incontro che magari portano appunto a condivisione, esatto, sì, di punti di vista. È stato un inizio. Erano presenti tanti comitati, da comitati toscani, c'era Maremma Attiva che si occupa della geotermia nel sud della Toscana, c'è stato... Che abbiamo intervistato. Guarda, tutte queste cose troverete tutto in podcast. E tra l'altro, scusa, piccola parentesi, io domenica mattina dovevo andare a lavorare, ma andando a lavorare mi sono ascoltato una fantastica diretta su Radio Wombat, sì, dell'intervista, insomma, di tutta l'assemblea. Di tutta l'assemblea. Bello. Soddisfazione. No, è bello, grazie. Assolutamente. E quindi bella impegnativa è stata, veramente sì, una bella cosa. Appunto abbiamo detto Maremma Attiva, c'erano i ragazzi del No Porto, i giovani Notav, c'era il comitato di Viale Corsica, appunto il Nodo Solidale, c'era il collettivo Gruppa, che si occupa invece di salute con attivi dei progetti riguardo appunto alla salute, l'accesso e il diritto alla salute. Mi scordo sicuramente comunque insomma molto molto partecipata, sì. Il pomeriggio sono andati avanti con degli workshop, erano in programma 3, sul medioattivismo ottenuto da Autistici Inventati, uno che è saltato, però è stata appunto l'occasione per parlare realmente poi delle proposte, di alcune proposte che appunto venute fuori dall'assemblea, hanno usato molto bene, direi, quello spazio. E l'ultimo, che l'ultimo incontro, ecologia politica e forme di vita contadina, quindi sì, assolutamente al tema con il luogo. Beh, che dire? Beh, due giorni intensi. Ragazzi, no, è stato bellissimo, è stato veramente bellissimo. Ben partecipati. Calore, a parte, clima, sì, cioè, calore umano, sì, veramente. Poi, cioè, io ho visto anche un bel po' di organizzazione, cioè, sì, quello che fantastici, si cercava di arrivare comunque a una concretezza anche nell'organizzazione dell'assemblea, con quella lavagna, con, sì, le, sì, proposte che volevano chiuderle, sì, no? Sì, sì. Tra l'altro, sono appunto organizzati, un mediatore, che poi tra l'altro lui stesso ha ammesso, cioè, che non ha dovuto mediare tendenzialmente niente. Andata bene, sì, per, sì, no, sì, perché si vedeva comunque una consapevolezza, cioè una consapevolezza di presenza in un'assemblea, insomma. Esatto. Fondamentale in un'assemblea così lunga, così partecipata, sì, certo, che vuole fortunatamente arrivare a dei punti. Bene, ragazzi, e noi andiamo avanti, che facciamo? Sì, comunque ricordiamo, l'unica cosa che vogliamo ricordare, anche fuori dall'intervista abbiamo sentito, e lo ricorderemo anche settimana prossima, l'appuntamento il 30 novembre. Ah, sì, e alle 15 in via Martelli. In via Martelli, davanti al palazzo, sì, dell'ex provincia, ora okay, città. E, ne parleremo magari anche settimana prossima, quando siamo più a ridosso. Ascoltatevi, vabbè, sul sito del Wombat troverete altre interviste e altri contenuti di questi due giorni. E adesso noi continuiamo con la nostra puntata meravigliosa, direi, senza nessun tipo di interruzione, forse perché no, abbiamo un po' anche la fretta di andare a mangiare. Io fame, ragazzi. Mangiate già. Di andare, ragazzi. No. Siamo qui, dove andate? Da nessuna parte. Va bene, inizialmente. Sì, sì, l'avete riconosciuto? Il nostro amico non Crippo ha la sigla. Non ha la sigla. Non si è autosiglato, no, ancora. Non mi sono autosiglato. Dovrei farlo. Ancora non forse sono dovremmo farlo noi, ciò, effettivamente. Forse sì, sì. Ma lo diciamo più o meno tutte le volte. Insomma, ma poi sì, è un po' la novella. Sentirete, dell'anno. Avrete sentito questo sottofondo nel frattempo. Era anche troppo alto inizialmente, ci hanno detto, quindi scusate se abbiamo coperto le parole, problemi tecnici oggi per Radio Wombat. Quello che sentite in sottofondo è Maurone Pagani, e quest'oggi volevo portare lui, volevo portare il suo ultimo disco solista, però tendenzialmente ho pensato fosse bene, insomma, parlare un po' in generale di Mauro Pagani, in particolare di Domani, il suo ultimo disco solista. Nato a Chiari nel 1946, figlio d'arte, dal padre flautista, Mauro Pagani è in assoluto uno dei personaggi più influenti per quanto riguarda la musica italiana, e diciamo un po' il padre della world music, di un tipo di musica che insomma sua, che mischia rock, blues, musica etnica di vario tipo, di matrice araba, balcanica, medio orientale. È un personaggio che suona mille strumenti, Mauro Pagani, violino, flauto, i principali, ma anche buzuki e tantissimi altri. Andiamo a parlare un attimino della sua storia, perché questo si è fatto veramente la storia della musica italiana. Negli anni 60 ha suonato con vari gruppi, tra cui uno che si chiamava Forneria Marconi, e non era la premiata Forneria Marconi questo gruppo qua, un altro gruppo. Lui riproporrà il nome premiata Forneria Marconi a un'altra formazione di artisti che si chiamava I Quelli, e non hanno niente a che vedere con la PFM i Quelli ancora, perché erano tutti quanti dei session men, delle persone che suonavano per la Ricordi e per i dischi che venivano prodotti. In particolare Fabrizio De André ha fatto nel 1970 La Buona Novella, primo concept album italiano, e a cui ha partecipato Mauro Pagani insieme appunto ai Quelli. E da questo incontro nascerà poi successivamente la PFM, e nel 71 Storia di un Minuto, che è, penso, non lo so, sicuramente uno degli album progressivi più famosi, almeno in Italia, di sempre, contiene Impressioni di settembre, La carrozza di Hans, Festa, tutti i pezzi principali della PFM. Ha collaborato con una quantità di artisti esorbitante, con Battisti e Mogol in particolare in quel periodo, De André l'abbiamo già detto, ma è un autore che ha avuto sempre difficoltà a far uscire, non ha mai fatto uscire dischi, molti dischi suoi, come Mauro Pagani. Il suo primo disco è del 78 e ci sono un sacco di tentativi. Questo qua che si sente in sottofondo è Il blu comincia davvero, e sentite, c'è un intreccio di strumenti a corda di vario genere, e è importantissimo quest'album perché è un mega frullato, diciamo, tra il progressive, ci sono dei pezzi cantati da Demetrio Stratos con tutti i suoi tipici gorgheggi di allora, c'è la partecipazione di tutti gli area, di tutta la PFM tranne Premoli, e crea proprio questo substrato musicale che poi De André sarà bravissimo a captare per miscelare all'interno di Cresa de Ma dell'84, definito come uno dei più grandi album anche da David Byrne, per ricordarci a puntate precedenti di Disco Grippo. Nel 91 esce Passa la Bellezza, altro album sempre di Mauro Pagani, da solo, l'ha scritto insieme a Massimo Bubola, collaboratore anche di De André, e c'è anche un pezzo intitolato Davvero Davvero, cantato in duetto insieme a Fabrizio De André, veramente bello. Arriviamo al 2003 e arriviamo al punto. Ci sono alcune canzoni all'interno di questo album che ancora una volta è tutto sperimentale, è tutto particolare. Mauro Pagani andrebbe ascoltato, cioè, io consiglio di ascoltare l'apertura di tutti i suoi album, sia di Mauro Pagani Passa la Bellezza che di Domani, perché in apertura dà tutto e offre scenari musicali veramente singolari. Mi piaceva passare Passa la Bellezza e dedicarla a Lillo, perché dice Passa la Bellezza, passa in bicicletta. Forse la proporremo in punta di pedale. Per adesso andiamo a sentirci due pezzi in apertura dell'album Domani del 2003, e uno si intitola Per Sempre, è un pezzo pseudo-africano. Sentiamocelo, Wombat. Passano le cose, le persone, poi scappano via via. Passano i giri e le parole, le musiche lontano. Si va. Gira la testa, la vita che c'è dentro, il motore che brucia non si ferma. Da quello che si sa è la ruota che va, il gioco che si fa ogni giorno. E allora si balla, e allora si va, e allora si corre finché ce n'è. E allora si dorme, e allora si va, e allora si ride, si grida, si... giochi, le teste dei bimbi e la vita che recita ogni giorno la favola del bel domani. Non invecchiare, non volevo farlo. La guardo che bella vita, brillare intorno. Vorrei ricordarci, ma in fondo non ho tempo. Tirate lo spago, mettetemi giù. Per sempre gridava, voglio vivere per sempre. Vivere per sempre. Per Eccolo qua, avrete sentito questa coda africana. E vado a presentare un altro pezzo di questo disco, che niente, fondamentalmente il disco l'ho presentato quasi per questo motivo, che a me questo pezzo piaceva molto, lo ascoltai nel 2003 e 2004, quegli anni laggiù, quando uscì Domani di Mauro Pagani. E me lo sono andato a riscoprire in televisione, in radio, così, e tutto quanto, nel rifacimento più famoso che hanno fatto tutti insieme per l'Abruzzo. La canzone originale, secondo me, era veramente molto più bella, con un senso molto più bello. E ce l'andiamo ad ascoltare. Eccolo qua. Tra le due del mare passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole del mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, home, shine on me. Day by day, save me, shine on me. Ma domani, domani, domani dov'è? Dov'è che si passa il confine? Che di colpo la vita sembra fatta per te e comincia. Fortuna si può dimenticare, qualche volta si vede una luce di prua e qualcuno grida domani. E domani, domani. La vita si fa grande. E niente, vi saluto e boh, spero di avervi dato un piccolo assaggio di questo autore, che andrebbe approfondito sicuramente meglio, e penso di non esserci riuscito. Comunque vabbè, ciao di tornerò, non hai detto sì, bravo. Tornerò più in forma che mai. Grazie, grazie. Beh, grazie mille. Sì, grazie davvero a Scifo. E niente, io volevo chiedere scusa, e prima l'ho lanciato prima del necessario. Sì, era così un momento di delirio. Ma sì, ma il caos, delirio. Si è detto oggi il caos, oggi è il caos, punto chiuso. In effetti, puntata 43, così, caos. Oh. Puntata bello questo sotto, cos'è? È iniziato tutto oggi quando abbiamo scoperto che il 43 era il caos. Esatto. Da lì è stato il caos. E continua il caos. Numero 44. Gatti. 44 gatti sarà la storia. Parleremo di gatti. No, un annuncio, diciamo, per la prossima puntata sarà esattamente un anno. Esatto. Che Fuoco alle Polveri va. Tanti auguri. La prossima non si fanno prima, si muore male. Si muore male? Dice, no? Poi capito, ci prendi in giro per l'esoterismo e poi sei davvero, sì, il più superstizioso di tutti. Certamente. Certamente. Allora, siamo arrivati al momento in cui vi raccontiamo cosa succede in settimana in città, o sto sbagliando nuovamente? No, tutto bene. Perfetto. Tutto bene. E sì. Cosa succede in settimana? Oggi, partiamo da oggi. Partiamo da lunedì 20. Lunedì 20. Lunedì 20 abbiamo la terza data del Cineforum Femminista allo studentato autogestito di Fonte di Mezzo. Ore 21. Alle 21, proiezione del film La lapidazione di Soraya. Esattamente, nel 2008. A vedere i film negli spazi occupati, e si sta bene. Sempre comunque. E sono leggeri. Sempre comunque. Esatto. Mentre domani, martedì 21. Allora, sempre film, perché comunque fa ghiaccio, quindi non è che poi sta tanto nel prato. No, no. Poi il sole cala presto. Esatto, e quindi infatti già dalle 18:30 ad Agraria c'è l'Agraria Trash Film Festival. Dalle 18:30, appunto, proiezione di Tromeo e Giulietta. E Juliet. Tromeo e Giulietta, sai, non so cosa sia. No, mi sono tortato. Chissà veramente cos'è. Non lo sappiamo, però possiamo vederci direttamente lì e scoprirlo tutti insieme. Ci sarà anche un concertino della banda larga elettroacustica. Altrimenti detta? Bleh. Dalle 21:30. Benissimo. Mentre all'Emerson, Black is Black, volume 1, beh, organizzato dal collettivo Nuovi Rumori, che ben conosciamo. Certo. Black metal, si fa black metal il martedì sera. Sì. Evviva, meno male, perché c'è bisogno di un po' più di metal nella città. Okay. Opinabile. No, no, ci sta, ci sta, certo. C'è bisogno di tutto. Di tutto, di tutto. E, quindi niente, seratona. Con Exis, Tomor e Cane di Goya. Bello, sì, nome, ma cioè, nel senso, abbiamo gente che arriva dall'estero, cioè, certo, sempre. Gli Exas da Copenaghen, i Tomor da Empoli, insomma, quindi sì, esatto, dall'estero proprio. Sì. E i Cane di Goya da Pistoia. Bene. Basta, mercoledì 22 invece. Attenzione. Quindi, cosa facciamo mercoledì? Attenzione, perché sempre il collettivo d'Agraria vi insegna a coltivare i funghi. Attenzione, questo è un workshop che si svolge. Funghi dai fondi di caffè, nel senso. Commestibili, diciamo così. Bravo. Commestibili. Insieme che alla. Che non vuol dire che non siano. Cioè, commestibili, eh? Commestibili, abbiamo detto. Non intendiamo niente, non sottointendiamo niente. O tutto. Allora, dalle 15. per dalle 15 alle 19 partecipare ci sono delle speciali regole, tra virgolette, bisogna dare un messaggio, andate a vedere se siete interessati sull'evento, figata i funghi nel io lo sai lo facevo ho coltivato andava bene, boia, buonissimi. Bello. E l'evento comunque se lo cercate è come coltivare i tuoi funghi dal fondo di caffè. E we wa. Giovedì 23. Ok, vai. Te la giovedì senti? 23. In polveriera. In polveriera. In polveriera alle ore 19. Sì. C'è la proiezione del documentario Sangue e Terra. Resistenza indigena del nord del Cauca. Colombia. Esatto. Di Ariel Arago Parra. Con cui tra l'altro. Vai, siamo saremo in collegamento in che hai detto? Dopo c'è l'elettrocumbia. Elettrocumbia, sì. Sì, no, ma volevo dire questo è il regista, era il nome del regista. Sì, e sarà tra l'altro in... se mette il microfono dritto verso di sé lo sentiamo, se no non se lo no, sentiamo. No, tesoro, Ecco. Bene. Molto bene. Bene, non ci farà arrabbiare. E, questo regista sarà in collegamento in video Skype. Scusate, che cosa cadono arance dal cielo. Andiamo avanti. È sempre un momento comunque complesso, io devo essere sincero. La rassegna vento è un momento il complesso. Caos. È veramente un momento allora, complesso. Comunque sempre ti aiuto giovedì, io, vai. Ti aiuto io. Sempre giovedì allo spazio Inchiostro alle ore 18 c'è la presentazione Il lavoro nel tempio del turismo di massa. Oh. Lustri e precariato. Lustrini e precariato, sì, lustri sono il tempo e basta. Sì. Con interventi di Rossana Cillo e Gesù Pazzi. Gesù Pazzi, che è francese. Gesù Pazzi. Gesù Pazzerella. Sempre giovedì. No. Dimmi, caro. Allo spazio Inchiostro è uno di quegli appuntamenti che stiamo ripetendo da quasi tutte le settimane. No, hai fatto bene a esserlo perché... Io sto facendo una sudata che non perché i lustri scorrono. Però è uno di quegli appuntamenti all'interno del ciclo di iniziative sulla trasformazione della città di Firenze. Sì, bravo. E questo sarà specifico sul lavoro, quindi come si trasforma il mondo del lavoro in una città che si dedica praticamente esclusivamente al turismo. E quindi si parlerà di lavori stagionali, di voucher e con anche appunto dei ragazzi dello Yes Paz, noto centro sociale di Napoli, di cui anche magari parleremo nelle prossime settimane, perché ci sono novità interessanti anche da assolutamente. E peraltro tutto questo un grande argomento, la redazione di Fuoco alle Polveri, l'argomento della Firenze città vetrina eccetera eccetera, la redazione ha deciso proprio di approfondire con una puntata apposita, quindi tenetevi più di una collegati tutti i lunedì alle 16:30 perché approfondiremo la questione con proprio anche i protagonisti di questa iniziativa dello spazio Inchiostro che noi stiamo seguendo in effetti nel suo svolgersi. Concludiamo giovedì scusami, ma l'ultima parte. Sì, bravo. La data conclusiva del forum nazionale contro la mafia organizzato dal collettivo studenti di sinistra presso l'edificio D4 del Polo Università di Novoli. Avevamo già raccontato settimana scorsa e quindi questo è il ciclo conclusivo. E ci sta Levanosca, diciamolo che ci sta Levanosca. E vai, che cazzo. Che nella puntata 24 noi peraltro intervistammo per lanciare il loro nuovo album. Bene. Se ben ricordate, puntata 24, andate a cercarvi il podcast. A proposito del 24, venerdì è il 24. Venerdì è il 24. Braf. E c'è il compleanno dell'occupazione Viale Corsia 81. Oh. Quindi ci si vede tutti lì. Il quinto compleanno. Quinto, sì, bravo. E insomma, uno spazio che in città, appunto, da 5 anni, che sono tanti, vista anche la facilità con cui le amministrazioni varie si prodigano nel sgomberare. E di insomma uno spazio importante, molto importante in città, e dalle 17 parte questo compleanno, questa giornata live painting e musica dalle 17 alle 19 asta benefit di biciclette recuperate dalla ciclofficina autogestita. Quindi, super ciclofficina che si ricollega veramente a tutto quello di cui stiamo parlando. 20:30 per piscina più gara di torte a premio, e alle 22 concerto i Benci, Alpha Tech e DJ Setfield. Bene. Sì, buono così. Evviva, saremo tutti lì? Saremo tutti lì, cerchiamo di esserci. In realtà noi siamo fuori dall'Italia, tesoro, però non lo diciamo a nessuno. Detto fra noi e noi, concludiamo però la settimana, perché anche sabato 25 c'è il Benefit Squad Party, in cui dovete trovarvi le info da soli. Bene, perché noi non ve le forniremo. Fanculo tutto. Perché mo basta. Esatto. No, andate a cercarvele da soli per ovvi motivi ve le cercherete da soli. E domenica? Domenica, cioè, spero da dire qualcosa. Domenica? Domenica? Siamo tutti orecchie. C'è un appuntamento, stiamo aspettando. Alzagli il volume. Domenica il 26. Cosa c'è domenica? Non lo sappiamo. Non lo so, io devo. No, domenica. Ad ora non abbiamo niente. Se ci avete da segnalarci, dai, c'è qualcosa, sparatecelo. Posta wombat@insiberia.net per mandarci i contributi. Oppure sulla pagina. Anche dalla pagina Facebook. Facebook tranquillamente, sì. Easy peasy. Siamo in conclusione? Ma sembra, però allora facciamo una cosa. No, perché questa musica sembra la conclusione. Sembra un po'. No, non finiamo ancora. Lo so, tranquilli. Si manda un'ultima canzone, poi rientriamo e ci sono due rubriche a sorpresa. Oh, via. Vedi? Volevo questo. Ciccia al fuego di polvere. E rieccoci qua. Eccoci. Sono partito esattamente come la musica. Bravo. Allora, abbiamo appena sentito Hold On, mai sentita su qui a Folle Polvere. No, Polvere, solo la 25.000esima volta che la facciamo ascoltare. Quando abbiamo fatto la diretta del Festival di Letteratura Sociale, sono partita 4-5 volte. Mi è scappato 5 volte. Sì. Ho capito, tutta la giornata di fila. A un certo punto mi finiva la musica. Senti. Allora, è il momento della rubrica più pazzerella, come è stata definita in passato. A proposito di Gesù Pazzerello, Radio Womba, di tutte anche le radio italiane, probabilmente. Sì. Ma secondo me non c'è bisogno di niente se non della sua sigla. Della sigla magica. Sì, e capirete braccia, subito. Braccia in alto. Braccia in alto. Eccola. Der Start. Null auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's! Los geht's! Schumacher. Eccoci. Eccoci. Non funziona. A Maldonado non si guarda in bocca. Non funziona bene. Mai. Non funziona bene. Ciao Mario, qual è il problema? Ora funziona. Ciao amici. Ciao Mario. Allora non la prendo più la macchina, perché non si fa vrom vrom vrom a Firenze. Non si fa vrom vrom. Si va a due. Si va a due, soprattutto con i lavori della tranvia. Niente vrom vrom vrom. E quindi pedaliamo. Impariamo a pedalare. Impariamo a pedalare. Impariamo a pedalare. E mentre venivo in macchina, ero in coda, ho pensato: Luigino mio, che ci combini? Luigino mio. Luigino. Luigino. A chi ci stiamo Hamilton. Riferendo? Hamilton, molto bene. Lewis Hamilton. Lo stavo ascoltando. Allora, però io Bricco non lo voglio, perché l'altra volta ci ha bruciato e annunciato in diretta. Lui ha annunciato il vincitore. Sì, ecco, infatti, come abbiamo annunciato in diretta del mondiale. Come del mondiale? Del mondiale fatto. Perché tu hai detto il vincitore della gara, e se quello lì vinceva la gara. No, no, non ha vinto. Comunque, ragazzi, però non seguite. È arrivato quinto. Però gli bastava arrivare a piazzata. Gli bastava arrivare a piazzata e ha vinto il mondiale. Comunque, è tutto finito. Allora, Hamilton ha vinto il mondiale dei piloti. La Mercedes ha vinto il mondiale dei costruttori. E invece sono fermo, se la scozzano con Vettel e Bottas per il secondo posto. Ma è così. Non, cioè, vabbè, ma noi siamo per Bottas. Noi, no, Bottas, no, ti ricordi quella volta che venne, arrivò a fare l'intervista e disse: non ha mai letto il libro in vita sua e si bullava di questa. Ah, è vero, è vero. Abbiamo vero. Smesso di difarlo dopo vero, questo. Per ragione, scusami. Allora, speriamo anche in un prossimo licenziamento per Bottas. Certo. Ma succede? No, ma 2018 ce l'ha il contratto. Se guida bene, bene. Se guida male, ciao, ciao, Bottas. Ciao, ciao, Bottas. Poi c'è la disoccupazione. Sì, sì, sussidietto. Per Bottas. Ma a proposito di giovani, Charles Leclerc, ricordiamocelo, ufficialmente ingaggiato dalla Sauber il prossimo anno, questo talentino del 97. Leclerc, grande. È una chicca. C'era un campione nella Formula 1, Leclerc. Questo si chiama Leclerc. Leclerc. Non lo so, Leclerc. Ma non può essere che è figlio d'arte, sono tutti figlioli d'arte. Insomma. Comunque noi ce l'abbiamo con Luigino oggi. Non è interessante il mondiale. Ok. Hamilton le ha combinate. Le Panama Papers, le famose Panama Papers, ogni pochino sfornano roba. Certo. Hamilton. Hanno sfornato Hamilton. Hanno sfornato Hamilton. Hanno sfornato Hamilton. Bello. Che aspetta che se lo... Vai, vai, sì, vai. Grazie. E qui ballano sui tavoli. Allora, non la riesco a trovare. C'avevo il nome. Si chiamava tipo... Vabbè, pazienza. Boeing caccia bombarding 6576C. Una cosa così era. L'aereo di Hamilton. Si è comprato un caccia bombardiere rosso, tamarro, gigante, questo jet, ma tamarro cromato, ma proprio si è fatto mille foto, tutte le pose davanti al jet. E l'hanno acchiappato perché è andato a Panama a fare a comprarlo a Panama, l'ha comprato a Panama. Scusa, ma lo guidava? No, lui si fa scherzare, c'è il suo pilota, vabbè, lui va a fare le gare in... Hamilton dice viaggia un paese in media al giorno. Queste sono quello giro per il mondo. Sì, sì, cioè, monta i soldi, va a fare le feste. Intanto piglia anche soldi per andare a fare le partecipazioni. E quindi ci va pure volentieri. Comunque si è comprato questo mega jet. Sì. Però è successo che per comprarlo senza IVA le andava a comprare a Panama. E a Panama poi l'hanno scoccato con i Panama Papers. Adesso è venuto fuori che avrebbe evaso questi 4 milioni di dollari. Che era il costo di sterline, scusa, che so pure di più a questo punto. 4 milioni di sterline, che so quanto ha evaso per spararsi questo aereo. Per spararsi questo aereo, sì. Quindi, che era il 20% l'IVA inglese. Quindi se fai il conto, tipo costava... Boh. L'abbiamo detto prima, 20. No? 20 milioni, c'è un jet 20. Da 20 milioni 20 soltanto. Milioni, e quindi grande indignazione dei lord inglesi? No, nessunissima indignazione. Tutti compatti con Hamilton, che semplicemente dice: è tutto legale, che cazzo volete? Però deve andare quello un po' fanculo. Il mondo va così, Hai capito? Cioè, ma però non è che sia legale, va bene. Bisogna qualcuno glielo spieghi anche Hamilton. Si è perso un fan, Si è perso un fan. Che non che sono io, ma è qualche ascoltatore di Radio Wombat, forse. Sicuramente. Io non l'ho mai fifato, quello lì mi è sempre stato sul caso. cazzo. A proposito di Hamilton, che cosa ha combinato? Ora ce l'abbiamo con Hamilton. Oh, vai, vai, vai. Allora, si è fatto l'ultima gara a Brasile. L'ultima. Bella comunque, una bella, sempre una bella gara in Brasile. La più breve, una bella gara. È successo che li hanno rapinati tutti. Tutti. A San Paolo, quando sono usciti, il team Force India e il team Williams sono stati aggrediti dai predoni. Gli hanno fatto i megafori. Hanno fatto i furtarelli. I furtarelli. Non solo, quando esce il team Mercedes, che ha vinto l'ultimo, esce carico il team Mercedes, i predoni vanno direttamente. Che è successo? Nulla, nulla, vai, nulla tranquillo. Vai tranquillo. Allora vanno al pulmino i predoni con Kalashnikov e pistole. Ah, così? Rientrano dentro, mettono, prendono uno, ferro alla tempia, dicono a tutti: smartphone, cellulari, soldi, catenine, anelli, sacchettata e via. Ma scusa, vabbè, io c'ho già una polemica contro questi predoni, prego, della notte. Probabilmente avevano delle attrezzature buone, più che gli smartphone da rubare. Vabbè, sì, no? Però magari non è che c'è una scuderia. Cazzo, vai a rubare a Hamilton. Secondo me rubare il telefono, Hamilton, ciao, rubare la rubare macchina, occhio, cioè non è che poi la si rivende. Che cazzo ne so, la sospensione. Ruba il jet, no? Ho capito, il jet è impegnativo, ragazzi. Lo smartphone, capito, 50 euro lo piazzi. Appunto, vabbè. Comunque, insomma, gli hanno rubato ogni ben di Dio. E Hamilton se ne esce su Twitter, dice: pregate per il mio team, pray for my team. A parte va tutto mai, cioè c'è questo articolo, Twitter dice: pregate per il mio team, la mia squadra è stata fantastica, sono stati davvero degli ottimi lavoratori qui per farmi vincere il mondiale, tutto su io. E poi dice pregate, ce l'ha con questo pregate. Ogni Twitter dice pregate di qua, pregate di là. Giusto. E se andate a vedere adesso il Twitter di Hamilton, sono pregate di qua, pregate di là, foto di lui con cose di Gesù e culi. Mette un sacco di culi e mette mi piace a tutta la gente che pubblica le foto del suo culo Hamilton, sicché donnine e preti. Luigino, Luigino. Scelta particolare. Beh, peculiare. No, vai, vai, vai. Pompa un po', vai. Ma questa non è stata la cosa più clamorosa successa in Brasile, perché l'anno scorso hanno rapito la suocera di Eccleston. Bellissimo. Bellissimo, storia, bellissimo. Ma cosa succede, no? Sì, sì. Non a caso ci ha fatto una rubrica su. Allora, poveraccia. Nel mondo della Formula 1 è stata rapita. Ma Eccleston li fa augurare veramente tutti i mali del mondo. In effetti. Sì, sì. La suocera, la mamma della moglie di Eccleston. Calcola la moglie di Eccleston. Cazzo, ma ci avrà 150 anni. No, è coetanea, è coetanea. È coetanea. Stupido io, scusate. Ingenuo. Insomma, l'hanno acchiappata e hanno chiesto un riscatto di l'anno scorso, sta roba, di 33 milioni di sterline. Eccleston ha detto: col cazzo che pago. La suocera, poi. Se non gliene frega niente. Anzi, voci informali dicono che proprio abbia detto sì. Anzi, grazie, per favore. Dato i posti sicuri dove nascondersi. Comunque la polizia poi l'ha liberata. Eccleston non ha pagato, c'è stata quindi un blitz della polizia, è riuscita a scovarla e l'ha liberata. E niente, in Brasile non succede. Sì, sì, sta bene, sta bene. Eccleston però non voleva dare i soldi. Eccleston è il patron della Formula 1, no, quello esautorato adesso da questo nuovo gruppetto Liberty Media. E infatti Eccleston è incarognito, va a tutti i gran premi e piscia da sì, sì, bravo, bravo, fa così. E sparla di tutti, dice le sbagliano tutte, che non ne imbroccano una, è un casino. È veramente un casino. Ruba le penne. Si ruba le penne, bravo, bravo. Fa questi giochini. E è successo che il sindaco di San Paolo ha detto: ma no, ma non è vero che è tutto pericolo. Mentre tutta la Formula 1 ha detto: non ci veniamo mai più, devi mettere in sicurezza tutta sta roba. Massa stesso, pilota brasiliano, appena ritiratosi dalla Formula 1 e per la prima volta a 40 anni non c'è più un brasiliano in Formula 1, sì, ha detto: non me ne frega niente di tornare in Brasile, non ci tornerò mai più. Ha detto, finché non si risolvono i problemi di sicurezza, sicché c'è il Brasile, è un po' indignato. Cioè, sì, infatti, lì sul trono miliardario a dire: in Brasile è pericoloso. Allora, volevo sapere le cose serie, ve le dico veloce perché tanto sono noioso. Una carrellata, allora, la sospensione della Red Bull l'hanno scoccata. Cioè, la Red Bull faceva le sospensioni mobili. No, giusto. No, fate bene. No. Cioè, devono essere fisse. Beh. La Red Bull la faceva abbassare, alzare e a comando. Furbetti. Sì, furbetti. Veramente cioè, non si fa. I veri ingegneri già lo dicevano, guardate, c'è cioè, la si abbassa in rettilinea, la macchina si abbassa. E infatti adesso c'è grande indagine danni della Red Bull, ma non si farà nulla di fatto, è tutta politica. Insomma, però è un caso abbastanza clamoroso, la Red Bull ha iniziato a recuperare quando ha messo questo. Ha truccato. Non è che ha truccato, lo fanno tutti, poi il giochino fanno tutti e poi sono così grossi e non gli puoi andare di più se la giocano un po' in questa maniera. E poi cosa è successo? Che c'è la grande battaglia per le pinne sul dorso. Adesso vi ricordate quando abbiamo iniziato questa rubrica, abbiamo parlato delle nuove macchine. Avevano due tratti distintivi rispetto alle solite. Una era la T-Wing, che era una specie di ala fatta a T piccolina che sbucava sopra l'alettone. Bocciata, prossimo anno non si vedranno più, hanno detto non schifo, ci possono stare. E l'altra era un drittone dietro che arrivava dall'abitacolo. Quello me lo ricordo, davvero. Quello prima si era una menzogna. Sì, sì. Questo invece c'era questo drittone. adesso non, l'anno prossimo lo vogliono tenere. Perché? Perché porta soldi. Perché è un ottimo luogo di visibilità e un sacco di sponsor ci vanno. Bello. Capito? Però aerodinamicamente avevano già detto l'avrebbero tolto. Quindi ci sono alcune scuderie, una in particolare la McLaren, che ha sviluppato la nuova macchina senza quel coso. E mo se è impuntata. Siccome esiste in Formula 1 una roba che si chiama Patto della Concordia, in cui ogni roba nuova o sono d'accordo tutti i team oppure non si fa, la McLaren ha battuto i piedi e ha detto: no, io ho fatto la macchina senza quello. Allora. Se andare a fare la macchina, immagino. Sì, cioè in realtà forse no. Certo, insomma, cazzo, no, è una questione di principio, probabilmente. Però se la giocano così, se la giocano sul principio adesso. Io, perché dobbiamo agevolare l'altra squadra, visto che possiamo mettere il veto e noi si sviluppava ormai la macchina così? Che succederà? Che succederà, direi a noi. Chi vivrà, vedrà, direi. Chi vivrà, vedrà. Noi continueremo a seguire, soprattutto perché correre anche Raikkonen il prossimo anno, quindi tranquilli ascoltatori. Ma scusa, ma come funziona? È finito il mondiale, giusto? Sì, sì, c'è l'ultima gara, Abu Dhabi, domenica prossima, tutti sintonizzati, mi raccomando, poi ne parliamo. L'ultima, senza... ragazzi, non l'avevi vista una, questa no, non nemmeno, l'avevi vista nemmeno una. Nemmeno mezza. Allora, guardiamo Abu Dhabi, che fra l'altro è brutta, è una gara brutta, diciamo. Bello, file bene. Sì, però è l'ultima. Magari anche alle 6 di mattina. È l'ultima, non lo so. Abu Dhabi. Secondo me è di notte, di notte, 23 tipo. Ma dopo pranzo, te la guardo. Bisogna controllare. Comunque, scusa, e dopo stanno fermi. Sì, sì. A lavorare, fanno fino un po' di vacanza, sciare, dove sì, sì, sì. Ci sono i test. No, se li fanno a febbraio. Fino a febbraio lavorano in fabbrica. I test saranno al simulatore e saranno in fabbrica. Non si va in pista. Fino a febbraio, poi si andrà a Barcellona per una doppia due giorni di test. Quello è il momento in cui si inizieranno a capire un po' gli equilibri in campo per il prossimo anno. Un test è stato annullato, ho visto. Quello della Pirelli. Bravo Lillo. Bravo Lillo. Quello della Pirelli. Quello delle gomme. Ma pazienza. Ma proprio in Brasile, fra l'altro. Sì, a Interlagos, vero? Bravo, bravo. Oh. E ti dirò di più, proprio a un pilota che si chiamava Norris. Lando Norris. Tipo Chuck Norris. Sì, che tutti se le immaginano essere invece no. Chuck Norris. Invece purtroppo no. Ma sarebbe stato bellissimo. Ma se Lando Norris fosse Interlagos stato Interlagos è il circuito di San Paolo? Sì, sì. Si chiama Interlagos. Fai troppe domande ma le so tutte. Si chiama Interlagos perché era collocato in un territorio che erano due laghi. Un territorio paludoso. Infatti Interlagos. Interlagos. E infatti adesso che ci hanno fatto tutta questa spianata, questa bella bonifica, è successo che però il terreno è frenabile, è molto umido, quindi ogni tanto si fa le buche, tutto crepato, non è un buon asfalto. Tutti gli anni lo devono un pochino rifare. Non è un grande asfalto quello di Interlagos. Bene. Bene, bene, bene. Allora, dici, già che sei qui. Voglio farvi sentire un audio. C'è un audio. Allora, c'è stata l'intervista. C'è stata l'intervista. Le fanno sempre una serie di interviste. No, io. Scusa. Non ho nessuno. Sono stato a casa per i succhi di frutta al birbillo. Allora, hanno intervistato Maurizio Arrivabene, che è quel tamarro gigante di principal della Ferrari che... Ho fatto caso a una cosa. Ogni volta che lo intervistano lui guarda in un punto imprecisato verso il niente. Voi immaginatevi una telecamera che prende i tre quarti di un tizio che guarda in punto imprecisato verso il niente, mente alto, e fa: ma siamo una grande squadra, dobbiamo lavorare. Ma tutto guarda così. L'orizzonte penso, no? Nemmeno l'orizzonte scruta, che cazzo ne so che fa quello lì. Comunque mi sta proprio sulle palle. Ok. E adesso gli hanno fatto una domanda. Cioè ora comunque si aspetta il team principal da Ferrari, lo parla inglese, no? Di buono. E allora gli fanno la domanda in inglese. Sì, sentiamo, sentiamo, arriva bene. Equality in Formula One? Will there be... Che cazzo ha detto? Your name? Jason Cordero. Questo era Maurizio, arriva bene. È veramente professionale. Cosa ne pensi? Tipo, ora, purtroppo è tagliata la prima parte. Gli chiedono in sostanza: ci sarà una direzione di livellamento delle forze in campo nella Formula 1? Cioè si va verso un'uguaglianza di... Che cazzo ha detto? Lui si gira e chiede a quello. Ma diceva maybe, sì, ma comunque, cioè, spara qualcosa. Ma poi impara l'inglese, c'è, voce, c'è il microfono davanti. Ma quantomeno la base della base. Comunque, niente. Eroi. Così. Viva l'Italia. Viva l'Italia. Bene. Allora, io ho finito, ho finito, posso parlare però, No, noi ci siamo, abbiamo notato da anche poi che peggiorerebbe però. No? Ci credo, infatti ti tagliamo e 18:48 abbiamo le frequenze Womba. Boia. Ci abbiamo un'ultima cosina dal giovane Maldonado che cresce e segue la Formula 1. Però sì, ci porta anche... No, in verità no, ragazzi. No, sto scherzando, lo so che non è così. purtroppo no, perché guarda, questa rubrica mi fa veramente venire un sacco di... Io non di voglio voglia. Che quello che mi ha bruciato la vittoria del mondiale abbia la mia base, se per cortesia si può cambiare. Però sono un sacco di cose. Comunque, le domande, no, sì, le mie domande... Troppe, direi. Troppe. Ma poi per uno che parla solo di bici. Di bici, lo sai, tutto di Formula 1. Bici in città, macchina a corsa su pista. Forza, bici in pista ci sono, ma è difficile. Allora, ragazzi, detto del giorno per salutarvi. Per chiudere. Va bene. Oggi è il 20 novembre. Esatto. Se volete sapere il santo? Vai. Sì. Che santo è? Sì. San Benigno Vescovo. Ma che palle sti vescovi? Che palle sti vescovi? Infatti, guarda, Benigno, fra l'altro, sì, no, c'è anche una storia particolare. Però, appunto, che palle sti vescovi? Ma poi li fanno dopo vescovi, cioè, vi dico. Ma no, dove fanno prima? No, ma questo qui addirittura c'è una storia che probabilmente non era neanche, non si sa neanche chi era. Ma noi non ce ne frega niente. Beh, non ce ne frega niente perché esatto. Io infatti vi ho portato un'alternativa. Il 20 ottobre, 20 novembre del 1910. Poi ce l'avete. Francisco Madero denuncia il presidente Diaz, il presidente del Messico, si dichiara lui stesso presidente e incita la rivoluzione per rovesciare il governo messicano. Quindi inizia di fatto una fase importante della rivoluzione messicana. Sì. Tra l'altro, alla quale Francisco Madero. Dopo essersi dichiarato presidente, ha incitato alla rivoluzione e poi ha comandato alcune truppe. E fra i suoi soldati c'era un certo Peppino Garibaldi. Ah già! Peppino Garibaldi. Bravo. Il nipote del più famoso Peppe. Giuseppe, eroe dei tuoi monti. Eroe dei tuoi monti, esatto. Bene. Il detto: più presto se ami più legno, più tardi se ami più frutta. In tema mondeggino. No, ridicelo. Allora, aspetta. Sì, però, cioè, comunque faccio la fine. Anche il collegamento io non è che ho colto da Garibaldi. Presto, ha detto come Garibaldi era riguardo al 20 novembre. Beh. Va bene, il detto dice: più presto se ami più legno, più tardi se ami più frutta. Riguarda la potatura. Certo. Va bene, quindi a seconda di come volete. Se poti prima. Cioè, si pota tendenzialmente in inverno quando le piante rallentano il loro ciclo vitale. Quindi se lo tagli più presto, quindi all'inizio del freddo, tenderai a rinforzare l'albero. Invece se lo tagli più tardi, tenderai a avere più frutta. Te di che scuola di pensiero sei? Vediamo più presto o più tardi? No, io più tardi. Non saprei. Tu più tardi. Vedi? Cioè, a casa mia più tardi. A casa tua più tardi. Sì. Più frutta. Sulla mia terrazza. Ma perché si parla di olive? Terrazza mia, magari, non sì. Sì, nel mio caso si parla di olive. Sì. E ci sta. No, io non posso. No, principio. Basta. Io non faccio foto. Bene. No, noi siamo della scuola che bisogna lasciarle stare le piante, non toccarle mai. Che sei della ma scuola? L'olivo, no, anch'io non so di quella scuola. L'olivo viene cespuglioso. Se vuoi fare l'olio, trebbiare. Forza, ma poi gli fa bene, respira la pianta. Sono scuole pensiero. Ma guarda, io ci parlo quando. Se no, all'uomo non gli vanno a fare. Quando lo faccio il capello, ci parlo un attimo. Come al parrucchiere, ci devi andare. Allora, chiudiamo tutto. Chiudiamo la serranda. Mi sembra che abbiamo dato abbastanza. Giù la Claire. Sì, tiriamo giù la Claire. Esattamente. Allora, ci vediamo lunedì prossimo alle 16:30 qui, sì, su Radio Wombat. Sì. 16:30 circa. Vero, lunedì prossimo. No, come? Ma non fa promesse, no. Non puoi mantenere circa. No, non fa promesse. Sempre circa. Esattamente. Grazie a tutti. Grazie per averci ascoltato e sempre solo Wombat. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. D'ora in poi, amico, io e te faremo un'ombra sola. Bello. Come diceva sempre il mio vecchio, se hai un amico di cui fidarti, non ti fidare. Ma se ti fidi ciecamente, allora diffida. Ah no, cioè, se hai un amico cieco...